Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Signori e signori, fra pochi minuti avrà inizio il programma di punta della radio di Confindustria, dove si parla di puttane e trambioni. Ed ecco a voi la zanzara. Vedo tutto negativo. Sì, io vedo molto negativo. Sì, non credete nemmeno a una parola di quello che vi viene detto dai signori della politica in questi giorni. Intanto sta per uscire Gentiloni in questo momento, fra poco sentiremo, caro Parenzo, la lista dei ministri. Anzi, sentiamo subito il signore. Ecco qua, in diretta dalla Lampedusa, la lista dei ministri. Palazzo del Quirinale, l'onorevole Paolo Gentiloni. Il quale sciogliendo il generale del Quirinale, signor Marra, no? No, non è più Marra, come vuole signor Zampetti. Signor Zampetti. E ha sottoposto Zappetti, no, le proposte relative alla nomina dei ministri, sì, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione. Bene, accettato l'incarico. Il giuramento dei componenti del governo avrà luogo oggi, Palazzo del Quirinale, alle ore 20. Bene. Il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà ora nota la composizione del governo. Eccoci. Grazie. Qui, fra poco Gentiloni, dopo il segretario generale del Quirinale, annuncerà la lista dei ministri. Adesso sentiremo Gentiloni fra qualche minuto con tutti i nuovi ministri del governo. Bello il rock, dopo la serietà c'è il rock, capito? La serietà, il segretario generale del Quirinale, se lo Zampetti tutto serio con gli occhialetti così, fra poco esce Gentiloni e annuncia la lista dei ministri. Prima di sentire Gentiloni, sentiamo l'opposizione. Bene, Di Battista, non li sopporto più. Senti. Io voglio votare perché non li sopporto più. Io non li sopporto più, ci hanno rovinato la vita questi soggetti. Io voglio... Ma che vuol dire protesta e scendere stiamo, in piazza? Sì, stiamo ragionando. Insomma, ma noi, quando? Noi ci ragioneremo appunto nei prossimi giorni, nelle prossime ore, diremo il nostro pensiero. Però è bella questa cosa, questa specie di sfogo. Io non li sopporto più, tagliatemelo bene, non li sopporto più. Ma non li sopporto più Di Battista invece, ma che discorso è? Ma cosa vuol dire? Risentiamo questa cosa, mi fa impazzire questa cosa, non li sopporto più. Io voglio votare perché non li sopporto più. Io non li sopporto più, ci hanno rovinato la vita questa. Siamo il nemico pubblico numero uno. Allora, bisogna dire una cosa, in questa situazione di grande incertezza dove questo governo certamente entrerà in carica, qualcuno dice un governo fotocopia, vedremo dai ministri, da Boschi, forse sottosegretario, forse no, Alfano addirittura ministro degli esteri, cosa secondo me abbastanza incredibile. Beh, le opposizioni hanno un gioco facile, no? Cioè di sparare ad alzo zero, elezioni subito, è un buffone, Renzi ha perso ma si ripresenta sotto altre spoglie che sono quelle del suo ministro degli esteri. Ancora Di Battista, vai. Io li capisco, hanno ragione, perché noi siamo il nemico pubblico numero uno della partitocrazia che ci ha rovinato la vita. Lo siamo e stiamo dalla parte dei cittadini. I cittadini però devono stare non dalla parte nostra, poi ognuno voterà quello che gli pare, ma dobbiamo andare a votare. Allora, sento invece la frase cult, Parenzo, la frase cult di Battista che fa un po' a pugni con la... con la grammatica eccetera eccetera, più che altro con con tutto ciò che è italiano, con è l'italiano, sì, ecco. Però io come sai non sono un purista da questo punto di vista. Primo perché ogni tanto in questa trasmissione ci sono degli strafalcioni anche da parte nostra, dove due ore e mezza di diretta succede qualsiasi cosa. Raramente. No, ci sono, ci sono. Da dunque io non sono un mai. Purista, chi se ne frega Cioè, importante non è che uno sbaglia un congiuntivo o che dica una parola fuori posto, importante è quello che uno dica. Uno può dire delle stronzate, può dire delle cose corrette, può dire delle cose sensate o non sensate. Se uno sbaglia una cosa e dice, vabbè, voglio che i cittadini devono votare, vabbè, ha sbagliato. Io lo assolvo da questo punto di vista, lo assolvo. Ma se un chirurgo opera male e si dimentica il bisturi regolarmente dentro il corpo di un paziente, ma gli permettiamo di operare ancora? Io non sono così, io non ci voglio stare qua dentro. Io voglio che i cittadini devono votare, dobbiamo votare, punto. Ah vabbè, d'accordo, ma che sarà mai? Neppure mia figlia è quarta elementare. Ma non è vero, dai. Comunque niente, al di là della vista dei ministri, vabbè, chi nuovo governo. Io però la massima. Io sono a Lampedusa, perché a Lampedusa non me ne frega niente, aspetta, c'è una cosa molto semplice. Aspetta, dopo torneremo su questo. Osservatore internazionale della salute, ma chi se ne frega? Aspetta un attimo, fermo. I medici, i migranti. Fermo con i migranti. Va bene. E tutti gli ascoltatori, adesso fra poco uscirà Gentiloni con la lista dei ministri. Devono ricordare solo una cosa, solo una cosa, perché ha ragione Di Battista da questo punto di vista. I giornalisti, chi fa comunicazione, gli intrattenitori, quelli della radio, i conduttori radiofonici e televisivi dovrebbero ricordare sempre quello che disse Renzi non più tardi di qualche mese fa, perché va ricordato, non va dimenticato. Io non sono anti-Renzi, lo dico io che non sono uno anti-Renzi, sì, per pregiudizio. Aveva promesso che avrebbe abbandonato la politica. Bisogno, io lo manderò continuamente. Ma questo audio, sì, lo manderò continuamente. Questa cosa deve essere ricordata e lui deve dirci adesso: io ci ho ripensato. Cosa è cambiato? Siccome oggi ha parlato anche alla cosa del Partito Democratico, no? Alla direzione, non so che cazzo era, e dunque è, come dire, no, è pienamente nel gioco politico, cioè non ha abbandonato la politica. Qualche mese fa ci disse una frase molto chiara, lo disse a tutti: io se perdo il referendum abbandono la politica. Da questo punto di vista i signori grillini hanno ragione a ricordarglielo. Sì, magari dicono tante stupidaggini, noi, secondo noi, però su questo hanno ragione, hanno perfettamente ragione. Se io perdo, con che faccia rimango? Cioè, scusate, ma... E lei conferma, cioè, qualora si... La referendum... Ma non è che non è che vado a casa, smetto di far politica. Perché, scusi, questa non è personalizzazione, questa è serietà verso i cittadini. E anche la Boschi lo disse, che forse diventa sottosegretario, fra poco lo sapremo, anche se non sapremo, credo, subito i sottosegretari, come al solito in Italia c'è questa cosa qua incredibile, no? Perché c'è tutta una procedura ancora antica. Prima c'è la nomina dei ministri, poi c'è una piccola trattativa, no? Una piccola trattativa e i sottosegretari. Io ho un sospetto, Parenzo, lo so che adesso mi darai del populista, mi darai del cosa, eccetera. Ho il sospetto, c'è la questione di settembre. Dopo settembre scatta il vitalizio. Dopo settembre scatta il vitalizio. Ma guarda che com'è ex premier. Ma non dire così. Io però i microfoni li vorrei aprire anche su questo. Che cosa vi piace o non vi piace di questo governo? Cosa vi piace? È un governo fotocopia? È un governo fotocopia di Renzi dopo il no degli italiani, che era un no anche a questo governo, un no al governo Renzi, sì o no? E vabbè. Ma se Renzi perde e se ne va e lascia la politica, lei lascia la politica o no? Sì, perché ovviamente è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Ragazzi, queste cose bisogna ricordarle sempre, eh? Bisogna ricordarle sempre, sempre. Eccolo qua, sentiamo Gentiloni. Ecco qua. Gentiloni e la lista dei ministri, fra poco sapremo il nuovo governo, via. Buonasera a tutti, do lettura della lista dei ministri del nuovo governo. Ministri senza portafoglio, la senatrice Anna Finocchiaro, alla quale intendo conferire l'incarico dei rapporti con il Parlamento. L'onorevole Marianna Madia, a cui conferirò l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione. L'onorevole Enrico Costa, incarico per gli affari regionali. Il professor Claudio De Vincenti, incarico per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Onorevole Luca Lotti, incarico per lo sport. Ministri con portafoglio. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Angelino Alfano. Ministro dell'Interno, senatore Marco Minniti. Ministro della Giustizia, onorevole Andrea Orlando. Ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti. Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor Piercarlo Padoan. Ministro dello Sviluppo Economico, dottor Carlo Calenda. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dottor Maurizio Martina. Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, dottor Gianluca Galletti. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dottor Graziano Del Rio. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, signor Giuliano Poletti. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, senatrice Valeria Fedeli. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, onorevole Dario Franceschini. Ministro della Salute, onorevole Beatrice Lorenzin. Proporrò quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Maria Elena Boschi. Ho fatto del mio meglio per formare il nuovo governo nel più breve tempo possibile, per aderire innanzitutto all'invito del Presidente della Repubblica e credo anche nell'interesse della stabilità delle nostre istituzioni, alla quale guardano le italiane e gli italiani. Il governo, come si vede anche dalla sua struttura, proseguirà nell'azione di innovazione svolta fin qui dal governo guidato dal Presidente Renzi e nel contempo si adopererà per facilitare il lavoro tra le diverse forze parlamentari volto a individuare le nuove regole per le leggi elettorali. Il Paese si è rimesso in moto in questi ultimi anni, ma non possiamo certo ignorare le varie forme di disagio, specie nelle fasce più deboli del ceto medio e specie nel Mezzogiorno, dove il lavoro è un'emergenza più drammatica che altrove. E sarà una vera priorità del nostro impegno dei prossimi mesi. Ragazzi, sul Mezzogiorno non ce l'ho fatta. Cioè, sul Mezzogiorno non ce l'ho più fatta. A parte che c'è il traffico da mandare in onda. Ma sul Mezzogiorno no, vi prego no. Cioè, la priorità il Mezzogiorno no. Ditemi di tutte le banalità possibili. Come sai, Parenzo, cioè, quando uno si presenta per formare il governo dice delle cose normali, no? Cioè, la priorità... Sì, però un governo di alto profilo... Ma è uguale a quello precedente! È uguale, identico! C'è la Boschi sottosegretaria a posto di Lotti! Cioè, come... È curioso, ma una cosa pazzesca, dai! No, cioè... però mi pare che ci sono... Scusa, è come se non fosse accaduto nulla! Però niente! Delle buone personalità... Ma sì, ma non è successo niente! Nulla! Cioè, c'è stato il referendum, il casino, il governo caduto, Renzi... È uguale! Identico! La Boschi al posto di Lotti... Cioè, praticamente il presidio di Renzi a Palazzo Chigi è quella che governa tutti i dossier, Gentiloni che è un renziano della prima ora e poi tutti gli stessi. L'unico che... governo di transizione, no, ma l'unico che ha un vantaggio, l'unico, sai chi è l'unico che ha un vantaggio? Signor Alfano, incredibile, ancora il governo Alfano e quello è pazzesco già. Ma la cosa più assurda è un'altra. Ottimo, che... Minniti agli interni. No, ma non è più la... No, ma ottimo Minniti. Che se non ha fatto niente. Ancora lo fai di ottimo. Ma cioè, non ha fatto niente. Era sottosegretario prima. No, ma aspetta, aspetta. La cosa più incredibile... Si è preoccupato di interni. No, ma Alfano, Alfano è una cosa incredibile. Alfano non vuole più gestire gli immigrati. Dunque non ha più la patata bollente della gente che lo insulta per gli immigrati. Cos'è che fa gli esteri? Cioè, promosso agli esteri. Alfano! Io vado ai matti, ragazzi. Io devo mandare Sgarbi su Alfano dopo, per forza. Fermo, traffico. Tanto sta ancora parlando Gentiloni, ma io sul Mezzogiorno non ce l'ho fatta più. Ragazzi, su me la priorità è il Mezzogiorno, non ce la faccio. Traffico. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento La Zanzara. Ragazzi, noi salutiamo così il nuovo ministro degli esteri, il signor Angelino Alfano, da non so quante migliaia di giorni, centinaia di giorni al governo, il signor Alfano, incredibilmente, pur rappresentando il 2%, non so, giù di lì, una cosa pazzesca, ma è abile, scaltro evidentemente, è furbo, è passato dagli interni, che gli immigrati, eccetera, eccetera, agli esteri. cioè all'estero siamo rappresentati dal signor Alfano. Beh, vabbè, questo non mi pare Alfano. Una cosa. Alfano, che... no, ragazzi, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Voglio sentire Sgarbi su Alfano, però devo dire una cosa, Vittorio. Non te puoi incazzare così perché non ti hanno pubblicato la prefazione al libro dei Vigili del Fuoco, al calendario, al libro, non so che cosa, dei Vigili del Fuoco. Senti come si incazza con Alfano, ti prego, Vittorione. Sono stato invitato, non dovendo parlare, ma come ospite d'onore, fra gli ospiti d'onore, insieme al capo della polizia, a qualche altra autorità, essendo stato parlamentare, ma essendo l'autorità che sono... per la storia dell'arte, per la bellezza, più di ogni Alfano, incapace e ignorante. Io sono l'autorità e tu non sei nessuno, caro Alfano, pezzo di merda. Cioè, questo è Sgarbi contro Alfano, perché pare che Alfano abbia interferito, anzi abbia impedito a Sgarbi di fare una prefazione in un libro sui Vigili del Fuoco. Come mi pare, come ha fatto bene, scusa? Ma ha fatto bene, dai, ma tutto quello che gli ha detto mi pare evidente, dai, ma scusa, ma che insulti gratis sono, ma ti pare? Aspetta, ma aspetta, capì che è finita qui, senti. Ma ha fatto benissimo. Senti, ma questo dopo è successo, questo insulto, perché prima non è che gliene diceva poche? Appunto. Il ministro Alfano ci ha chiesto di censurare il tuo testo. Ah sì? Il ministro Alfano ci ha chiesto, lui che nulla sa di opere d'arte, capra come nessuna, censura un testo mio, quell'ignorante assoluto, abusivo del governo, ricattatore, un uomo che ha preteso gli stessi ministri del governo Letta nel governo Renzi, atteggiamento intimidatorio per avere i voti per la maggioranza, cosa che gli ho rimproverato, atteggiamento peggio che mafioso. Hai fatto un errore censurandomi. Tu dirai, ma non l'ho fatto io. L'avrà fatto il prefetto? Non credo. Forse l'ha fatto per paura di te. Ancora peggio. Hai intimidito un prefetto. Hai intimidito un prefetto. Berlusconi, per aver chiesto la liberazione di Rubbi, è stato processato per concussione. La tua è concussione. Sei un criminale. Criminale. Sempre Sgarbi su Alfano, neo ministro degli esteri. Ragazzi, neo ministro degli esteri in Europa, c'era Angelino Alfano. Alfano, quel pezzo di merda. Però hai anche il potere di stampare un calendario? L'autonomia dei Vigili del Fuoco non arriva neppure a quello? Tu lo hai intimidito. Lui ha censurato me per paura di te. La paura non è democrazia. Tu non meriti di fare il ministro. Tu non meriti di tornare da nessuna parte, a casa e in tribunale. Vigliacco, concussore. Ragazzi, dopo la notizia di Alfano, ministro degli esteri, che era già nell'aria, dovevo sentire per forza, mi dovevo fare un'iniezione di Sgarbi. Ma perché? Un'iniezione di Sgarbi, non lo so perché. Quanta acrimonia. No, ragazzi, quanta... però io non ho nulla contro Alfano, davvero non ho nulla, sembra strano, ma non ho nulla contro Alfano, solo che trovo insopportabile il fatto che uno che ha lo 0, eccetera, sia da mille giorni ministro. Ma non c'entra niente, dai. No, facendo valere, prima era con Berlusconi e facendo valere dopo ma... i suoi in Parlamento. Vergogna, vergogna, è una vergogna, mandate. Ma è la democrazia parlamentare, funziona così. E questa è una vergogna! È una vergogna! Mi dispiace per i Vigili del Fuoco. Mi fa piacere per te che hai svelato la tua anima di ministro della minaccia, ministro della malavita, non ministro, nullo, nullo, nullo! Mario da Salerno, vai Mario, Mario. Ciao Cruciani, buonasera. Hai sentito il governo? Hai sentito il governo, sì, Mario? Sì, è una vergogna. Poi c'è questo Parenzo vicino a te che non capisce un fico secco. Perché? Ma non sono vicino, ma non va davvero, vuole giudicare a Di Battista che non sono nemmeno all'altezza di sapere al mattino quando si alza, che cosa, che giorno è. Chi? Perché è Parenzo, non tu. Parenzo, no, si alza e credo che sappia che giorno davvero, è. No, davvero, Cruciani, perché poi un'altra cosa volevo dire. Dimmi. Non sta all'altezza di prendersi per la trasmissione con te vicino, la Confindustria te lo paga, perché fai il lecchino. Qualche volta l'ho sentito dalla fretta, ho cambiato canale. Ma lecchino di chi? Non ho capito. Ma lecchino della Confindustria, Parenzo. Ma no, ma non mi pare lecchino della Confindustria. Non mi pare, chi lo paga? Lo pago io. Chi ma che c'entra? Ma hai detto la Confindustria, non la Camorra però, eh? Ma ti sto da parte, sì, sì, perciò non sei all'altezza di fare trasmissioni tu. Vabbè, no, tu non sei all'altezza, è un po' bassino effettivamente. Ma dov'è lei? Di dove è lei? Di Salerno. Poi volevo dire un'altra cosa. Aspetta, sentiamo questo. Aspetta, no, non mi interessa, vattene. Sentiamo questo di Caserta, va, Gennaro. Signor Gennaro, sì, lo butto via, Mario, vaffanculo. Buttalo via. Gennaro, vai, dimmi. No, ma Giuseppe, buonasera. Dimmi, buonasera, Gennaro, dimmi. No, senti, io volevo dire una cosa. Noi ci stiamo meravigliando che è cambiato il governo, no? È quasi sempre la stessa facciata. Ma in effetti, ma perché non lo sappiamo che ormai la politica è un conflitto di interesse, no? Tu pensiamo, ma che c'entra, per esempio, conflitto di interesse? Mettiamo l'esempio di Renzi, no? Renzi è stato bruciato come politico perché poteva dare tanto. Gennaro, le prime due telefonate, Parenzo, mi sembra che siano da parte di due imbecilli, tutte e due. Che dici? Sì, due imbecilli, due imbecilli. Anche Gennaro, mi sono bastati 20 secondi di Gennaro per dire sei un imbecille. Non lo so, sarà eccessivo, però la sento così a pelle. A dopo. Mi sta deludendo quasi tutto. Mi sta deludendo quasi tutto. Roma-Napoli, in auto con un'amica. Io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Angelino Alfano. Quel pezzo di merda! Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Maria Elena Boschi. Lei lascia la politica o no? Sì. Il montaggio realizzato dal grandissimo Michelino Previato, caro Parenzo. Grande Previato. È un montaggio, eh? È un montaggio, eh? Sì. La parola pezzo di merda, no, perché bisogna sempre chiarire qua, è stata pronunciata dal professore Sgarbi, Sgarbi. Che dà sempre questi giudizi abbastanza tranchant. La cosa che più mi colpisce di questa lista dei ministri è Lotti, che diventa ministro dello sport. Cioè, declassato, tu dici. E la nuova disciplina si chiama salto delle elezioni. Ecco, il salto delle elezioni. No, ragazzi, ma lo vogliamo dire chiaramente la grande vergogna qual è? No, la grande vergogna. Intanto Gentiloni è un ottimo... Lascia perdere Gentiloni. È un'ottima figura. Gentiloni che è passato da Democrazia Parlamentare. Per gestire questa fase di transizione complicata. Dai, ma sei diventato veramente peggio. Complessa ma sei, per il paese. Ma nemmeno Bruno Vespa va a dire queste cose qua. Ho detto, no, ma infatti siamo subito. Cioè, io volevo essere qui per parlare di Lampedusa. No, ma fermo un attimo, non me ne frega niente. C'è la formazione del governo, scusa. Lasciami dire una cosa. La Boschi, il vero scandalo è la Boschi. Cioè, tu ti rendi conto, certo, una persona che è stata sconfitta dalla gente, dal bobolo, come si dice, no? La gente, d'accordo. Cioè gli elettori, hanno votato il 60% contro la riforma. Dal governo, non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Invece non solo non sparisce dal governo, la signora, anche là, io non ho nulla contro la Boschi, non me ne frega niente, non ho né antipatia né simpatia. Perché sono io d'accordo con te. Che cosa fa questa qua? Rispunta come sottosegretario. Con te, che ti devo dire? No, ma stai mica lo sto dicendo. Ma lo sto dicendo a chi ascolta. Ti sto dicendo, sono d'accordo con te, lo dovevo stare con quello. Cosa ti devo dire in più? No, ma fammi capire, sono d'accordo con te. La Boschi doveva tornare alla Terina. Ma e sì, ma no, la Terina, andasse al partito, quello che vuole sotto. Ma più di dirti così, che ti devo dire? Che adesso chiamerà sicuramente qualche imbecille che dirà Parenzo difende il governo. No, io non è che difendo il fatto che Gentiloni è una brava persona, difendo il fatto che un governo di transizione ci vuole. La Boschi, questa è, guarda, lo diciamo a borse aperte, virgolettato, che deve essere ripreso dall'ANS. La Boschi doveva tornare a Casua, come si dice a Milano. Sono alla d'accordo con te, d'accordo. Assolutamente, dai. Alla Laterina, come si chiama? Ma soprattutto perché se c'è una persona che era il simbolo della riforma. Sono d'accordo con te, cosa devo dire? Ragazzi, rimandate il loop Renzi che lascia la politica. Però voglio sentire almeno per 3 giorni, lo voglio sentire praticamente ogni mezz'ora, dai. Se io perdo, con che faccia rimango? Cioè, scusate, ma... E lei conferma, cioè, qualora si... La referendum... Ma non è che vado a casa, smetto di far politica. Perché, scusi, questa non è personalizzazione, questa è serietà verso i cittadini. Sarà serietà, amico mio, però questo governo che è nato oggi non è cambiato praticamente nulla, niente, solo il Presidente del Consiglio, per carità, è importante, solo il Presidente del Consiglio, il resto tutto uguale, tutti i ministri, qualche cambiamento. Il signor Alfano, ministro degli esteri, incredibilmente, al posto del ministro degli interni, cioè, ci ha guadagnato, ci hanno guadagnato tutti, cioè i principali, come dire, rappresentanti del governo Renzi, Alfano, quello che ha gestito l'immigrazione, con i risultati che sappiamo, secondo me, e ministro degli esteri. La signora Boschi, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio. Poi chi c'è di altro promosso? Tutti gli altri rimasti al loro posto. La sanità, signora, come si chiama, l'amica tua, Lorenzin, lì, dai, su, ragazzi. Sì, io vedo molto negativo. No, io non vedo negativo, dico che è una vergogna e basta, dai, su. È come se non fosse accaduto nulla. Come se la gente fosse andata a votare il 4 dicembre, così, una cosa di passaggio, un dettaglio, dai, una cosa pazzesca, dai, pazzesca. Vabbè, apriamo? Apriamo, dai, forza. Gabriele, provincia di Taranto, dai. Ciao, ragazzi, ma siamo rappresentati, allora, da Mattarella, Presidente della Repubblica, un fantoccio, un fantoccio di che c'è da fare? Burattinaio di cosa? Anzi, scusa, è un burattino più che un burattinaio. Sembra un gufaccio triste. Adesso è arrivato Gentiloni, la famosa mummia sicula, come dice Dago Spero. Mummia sicula. Vabbè, dai, allora. Ecco, loro rappresentano l'immagine dell'Italia. Mattarella, Gentiloni, un'altra faccia. Vabbè, Gentiloni, Gentiloni è quello che è. Certo, non è brillante, non è Renzi. Ma noi, guarda, Renzi a me mi stava sulle palle, io ho votato no, ma almeno dava un'idea di Italia giovane, no? Poteva dare uno sprint, niente, adesso siamo ritornati. Mattarella, Gentiloni, tristissimo, e Alfano agli esteri è qualcosa di incredibile. Sarà l'immagine dell'Italia portata nel mondo, Alfano. Ma poi la Boschi, io condivido, una volta tanto ti condivido Giuseppe, la Boschi non si può vedere, non si può sentire, questa arroganza del PD deve finire. Vabbè, Paolo da Roma, ho capito perfettamente, Paolo da Roma, dai, sì, forza. Abbiamo capito, basta, ciao. Sì. Senti, io volevo capire, vabbè, non parlo di sto governo perché... E di che vuoi parlare, dai, allora? Che cazzo diciamo? Voglio parlare della tua apertura, perché sì. Io voglio capire quale cazzo è il tuo problema col Sud. Cioè... No, io non ho nessun problema, dico semplicemente che un primo ministro incaricato, sì. Appena che dice la priorità è il mezzogiorno, priorità. L'ho sentito da quando più o meno mastico sempre, di politica, da 40 anni. Perché un cavallo, però comunque, cioè, nel senso, no, non gli possiamo dar fiducia, c'hai ragione, no? Che cazzo gli devi dar fiducia? Però c'ha ragione, cioè nel senso... Vabbè, ciao, Roberto, non sai che dire. Roberto da Torino, nulla, ciao. Nulla, non sa che dire. Pronto? Adesso ormai faccio così oggi, Roberto da Torino. Dai. Pronto? Ciao. Dimmi. Niente, volevo soltanto dire che tutti questi che telefonano e credono di essere così indignati da questo governo, voglio dire che è assolutamente regolare quello che ha fatto il Presidente della Repubblica. Ma chi ha detto che è illegittimo? Ha detto no, che nessuno, non mica nessuno, ho detto che è un colpo, infatti, di Stato. Nessuno. Dico soltanto che chi si sente veramente così indignato, secondo me l'unica cosa che potrebbe fare è imbracciare un fucile e andare in piazza. Ma perché? Non è che per forza essere indignati significa per Eccolo forza qua. Dover prendere un fucile, ma scusa. Mancava quello, il scusa, Roberto. Ma no, ma guarda che io lo dico, ma non perché sono indignato, a me il governo Gentiloni è un governo democraticamente eletto. Ma a parte che ancora deve avere la fiducia, ma l'avrà, ma il problema fondamentale è un altro, è la fotocopia. No, perché c'è è Ala, la fotocopia. Non hanno messo dentro Ala. Ma non hanno messo dentro Verdini. Ma lo sai che la gente per strada, i senatori di Verdini. Sì, ma li avranno, gli daranno qualche sottosegretario, gli daranno qualche altra cosa. Fondamentale, ma non è che poi nelle strade la gente si chiede ma ci sarà Verdini nel governo oppure no. Io nei bar non sento la discussione sulla presenza di Verdini, no, o meno, no. Non c'è. Però sai che Verdini può non far non dare la fiducia, vabbè, al governo. Arrivederci, questo lo sappiamo già. Alfredo da Milano, vai. Sì, ciao, senti, due cose ti volevo dire velocemente, sì. Allora, una è che per una volta sono d'accordo con Alfano, ha fatto tante cose brutte, una bella l'ha fatta, cioè ha censurato Sgarbi. Cioè? Non si può più sentire, anche adesso nei modi e nei contenuti, è veramente diventato la caricatura di se stesso. Guarda, provavo, come dire... Senti, però non mi toccare così, ma in maniera banale il professore. Il professore è il professore, è intoccabile. Sì, ma il professore ormai ha stufato, è sempre quello. Ma ti ha stufato, che vuol dire? Ma poi l'ha toccato sul personale e fai sta scena. Veramente, ma e quando ti dice brutto. E quando la ti seconda, dice, aspetta, fermo là. Quando ti dice che non paga le tasse, ti piace, Scarbone? Prego? Quando, scusa, ti dice che non vuole, quando ti dice che non vuole, no, pagare le tasse. Chi non vuole pagare le tasse? Sgarbi. Ognuno di voi fa quello che vuole, poi ci sono delle leggi, insomma, risponderà. Vabbè, chi Alfredo, che vuoi ancora, dai. Io ti voglio solo dire, per il governo, ma che governo volevi? Scusami, è stato fatto un referendum. Questo non c'è bisogno di alcun governo. Non c'è bisogno di alcun governo. Basta, ci sono paesi, che sono stati senza governo per tanti mesi. Non c'era bisogno di fare un governo nuovo per fare una legge elettorale, che è l'unica cosa che serve e su cui non si metteranno d'accordo mai. Ci sarà un grande casino. Questo è il punto fondamentale. Invece alcuni provano a resistere, vediamo che succede. Intanto facciamo un governo nuovo che poi è uguale a quello precedente. Bisogna fare solo una legge elettorale, o anzi non farla, perché quella che c'è va benissimo, anche se sono diverse. Non capisco qual è il problema. Cioè, non... Antonio, provincia di Monza. Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi Antonio, dimmi. Volevo solo intervenire sul nuovo governo che è stato appena nominato. E allora? A parte che è scandaloso, ma da una parte sono contento, perché io sono stato PD per 35 anni, sì. Addirittura le ultime primarie ho anche pagato 2 euro per e questi elementi. E adesso? E adesso sono contento, perché così faranno incazzare ancora di più sicuro, tutti gli italiani. Sicuro li faranno... E li manderanno tutti a casa, ma io per primo voterò 5 Stelle, ma però sarò il primo a... Vedi qual è il punto, Parenzo, perché quello che provoca questo governo, che è fotocopia di quell'altro come se non fosse successo per nulla il 4 dicembre, è che la gente dice, ma come, noi abbiamo votato il 60% contro Renzi e ci presentate una fotocopia con gli stessi ministri, ma questi si danno la zappa sui piedi, è pazzesco. Clotilde, provincia di Roma, vai, gente che parla sul governo, vai Clotilde, dimmi. Pronto? Sì, dimmi. Buonasera. Senta, io ho chiamato altre volte e non ho mai parlato male. E chi se ne frega? Ma oggi sono veramente incazzata. Perché è incazzata, Clotilde? Che l'hai preso? Che è successo? Boschi. Perché? Con questo governo. Cioè, mi sembra un incubo. Dico, ma io vado ai pazzi. Perché vai pazzi, signora? Ma scusa un attimo, ma è possibile che nessuno abbia capito quel cavolo che è successo? Beh, io la capisco, signora, cara mia, cara Clotilde, ti capisco, anzi, ti do del tutto. Questi PD si stanno dando la zappa sui piedi. Sì. E poi l'abusivo nel PD è Renzi. Beh, adesso, perché abusivo non nel PD, no, ha vinto le primarie, eccetera, il segretario, abusivo non si può dire. Ma non è il PD, è il suo partito è diventato. Ma perché non si presenta con Berlusconi che sta cercando un successore? Clotilde, amica mia, ti do un bacio. Ciao. Sono in stazione e vedo solo nani che camminano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. In coda per consegnare i codici per l'esame d'avvocato 2016, in cuffia La Zanzara e Richard Benson. I nani. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ragazzi, i vegani animalisti regalano sempre qualcosa di incredibile. Nel fine settimana, purtroppo, è morto, te lo ricordi, quel veterinario che si era fatto fotografare con un leone? Sì, come no. Certo. Mentre andava in Africa in una battuta di caccia. Si chiamava Luciano Ponzetto, è morto caduto da una roccia durante questo una battuta dispiace, di caccia. Questo mi dispiace, cosa dobbiamo fare? Beh, assolutamente, si può morire naturalmente. La cosa incredibile è che... mi sembra la notizia del giorno, però per carità... No, assolutamente, però ti voglio far notare alcune cose. Cioè, questo qua è morto, non solo hanno creato delle pagine per offenderlo, delle pagine su Facebook per offenderlo, ma i commenti te li lascio immaginare. Te ne leggo alcuni perché sono veramente incredibili. Sentiamo, allora, una signora che si chiama, io voglio fare sempre nomi e cognomi, Anna Longini. Certo che è importante, per quello che succede nella società è importante. Non è importante solamente l'equilibrio tra Lotti e la Boschi, di cui non fate un cazzo. Fermo, perché nessuno. Franceschini ha detto grazie a Mattarella per l'incarico. Incarico quale? Questa è una frase importante, però. Allora, no? Anna Longini, finalmente gli animali si sono vendicati. Quel povero individuo frustrato non esiste più. Uno sputo in sua memoria. Un'altra che si chiama Alice Cavalletti, evviva. Barbara Donnini, spesso sono le donne poi le più cattive. Barbara Donnini, mi dispiace solo che non sia morta impallinata da uno stronzo come lui. Un'altra che si chiama Mariolina Melis, non mi dispiace per niente, eri un assassino, un bastardo in meno. un'altra che si chiama Silvia Baldi, ti sta bene schifoso, un'altra ancora che si chiama non so come, Ornella Cantinazzi, giustizia è fatta, Carolina Marrazzo, bastardo schifoso, brucia all'inferno. Un'altra che si chiama Manuela Bonazzi, è stato punito per tutto il male che ha fatto, begli sta, ora brucia all'inferno l'assassino. Ma la gente è malata, questi sono dei criminali. No, cioè... ma la gente, sì, criminali, malati, ma gente soprattutto che non ha nulla da fare, allora, se non insultare un morto, ma incredibile. Allora, i nostri amici tassisti dovrebbero ribellarsi nei confronti di questo tassista di Bolzano. Sì, bravo. Il quale, almeno da quello che sappiamo, Bravo. Il quale cosa ha fatto? Ha insultato, picchiato e gettato il telefonino di una signora, che poi era una, è una biologa keniota, o keniano, keniota, ditelo come cazzo vi pare, sposata con un italiano a Bolzano. Hanno litigato sul percorso del taxi. Sai quando dice un tassista: beh, secondo me lei sta facendo un percorso troppo lungo, può per favore, Hanno litigato da pazzi. Lei a un certo punto si è messa a registrare, questo è sceso dalla macchina, l'ha picchiata e ha buttato il telefonino fuori, una cosa pazzesca. Sentite. Allora, se io ti dico che parliamo 40 lire. Ma se tu mi dici che sbaglio strada, sì, mi devi dire dove devo andare. Allora, ti ho dato il diritto. Ti ho fatto Palermo 40, hai capito? Ti un cartone nei denti. Adesso prova. Scendi dalla mia. Allora, ti ho detto che a Palermo mia... 40. E allora, tu mi hai detto che ho sbagliato strada. Fissa. Quindi adesso scendi dalla mia macchina. Scendo, ok. Certo. Certo che ti ho detto via Palermo 40, non pago, chiamiamo la polizia. Prima ti ho detto. Te paghi. Okay. Te paghi. Puttana Eva, adesso ti ammazzo di botte. Ti ammazzo di botte, brutta bastarda. Allora, ti ho detto. Scendi da questa macchina, bastarda maledetta. È fortissimo questo audio, Scendi dalla macchina, bastarda maledetta. Sì, ma spero che gli ritirino la licenza a questo signore qui. Allora, è evidente che gli devono ritirare la licenza, mi pare chiaro, una che dice così, basta, poi picchia, questo è stato io, denunciato. Io come sai ho conosciuto e conosco tantissimi tassisti, sono tutte brave persone, non mi è mai capitato di avere a che fare con dei... Quello è un criminale, adesso, fa il tassista. Non è che è un criminale tassista, è un criminale, punto. Sì, io non credo che questo qua sia un razzista, cioè non credo che l'abbia fatto. Sicuramente c'è anche quello. Ma che c'entra? Questo ha litigato con quella mica perché è nera. Non, non si sarebbe permesso con altre, probabilmente c'è l'aggravante dell'odio razziale, molto probabile. Ma che aggravante dell'odio razziale? No, adesso dai. Non sto scherzando per nulla, e te lo dico da Lampedusa, dall'isola degli sbarchi dove mi trovo, quindi voglio dire, non e vedo la civiltà del posto. A proposito, mi sembra che hai sentito oggi un dottore che tu conosci, io non conoscevo prima. Beh, è un grande eroe, il dottor Bartolo, che è il presidente dell'Osservatorio Internazionale della Salute. Un esatto, uomo... un medico. No, non è un medico, è un medico di fuoco a mare. È un medico, perché gli altri medici che sono degli stronzi, è un medico. No, è il medico di sanità di frontiera, cioè è il medico simbolo dell'accoglienza agli immigrati. Diciamo. Dell'accoglienza, della prima accoglienza. Ha lanciato qui un corso di formazione per i medici. Va bene, senti che cosa ha detto questo signore. Sì, era lì. Senti che cosa ha detto. Ha detto. Gli immigrati sono fratelli. Certo. Sono fratelli. Senti. Mi sarebbe opportuno invece fare capire a tutte queste persone che si tratta invece di fratelli come noi, di gente che arriva dall'altra parte del Mediterraneo, che scappa da cose inaudite, dalla guerra, dalle torture, dalle sevizie. Portano tanto di buono gli immigrati, cultura, tradizione, poi vogliono lavorare. Ma insomma sì, alcuni sì, altri no, però. Comunque, sentiamo. Possono interagire con noi e portare tutto quello che è di buono che portano, tanto di buono, sa? Portano cultura, portano tradizione, portano le loro braccia, sono gente che vuole lavorare, gente che vuole operosa, gente che vuole contribuire a quella che è anche la rinascita economica, sia dell'Italia ma sia anche dell'Europa, quindi dobbiamo considerarle come un'opportunità, non come un pericolo. Lampedusa è la porta, l'Italia è la casa. Certo. Ma dai, su. Ma dai, uno dei più grandi medici italiani, candidato al Nobel. Aspetta, era per la pace. Fermo. Ah, ragazzi. noi Lampedusa, ma noi anche i porti dove adesso arrivano, Trapani, Augusta, Pozzallo, Messina, noi siamo la porta d'ingresso, ma siamo una porta, tutto il resto è la casa, l'Italia, l'Europa è la casa. Ma chi te l'ha detto che è la casa? Accogliamo tutti allora, accogliamo tutti, ma comunque, via! Quest'uomo qui è quello che sta facendo la più alta scuola di formazione per formare i medici. Abbiamo capito, fermo! Sai quanti migranti minori non accompagnati sono sbarcati nel 2016? Vabbè, ma non mi minori! Ma non mi interessa! Non terroristi! Minori! 6.000 minori! Vabbè. 6.000 minori! Male, 6.000. Molto male, non dovrebbero arrivare. 6.000 minori. Matteo Salvini con noi, buonasera. Eccolo, buonasera, buonasera. Buonasera, eccolo lì. Allora, eccolo no. Lì. Vieni qui, ragazzi, vieni a Lampedusa, prima di, io sono a Lampedusa, prima di dire tornate a casa vostra e di sputare, vieni a vedere le barche, il cimitero che c'è qui a Lampedusa, l'accoglienza. Ma ci sarà andato mille volte, dai, ci sarà andato mille volte. No, non è venuto qui, perché se fosse... Ma si può parlare? No, non si può parlare, sta facendo il comizio. Non si può parlare. Allora, però parliamo del governo, dai, adesso Lampedusa è un'altra cosa. Sì, vabbè, no, ricordo solo che perfino il commissario europeo all'immigrazione ha detto che l'80% di chi arriva in Italia irregolare clandestino, quindi 6.000 minori non accompagnati e le cooperative rosse a ti fare, ma che cooperative, il dottor Bartolo, cosa c'entra le cooperative? Quali cooperative? Vabbè, allora io voglio dire una cosa, la cosa più incredibile secondo me di questo governo, la cosa più incredibile è la Boschi, dai, sì, sono d'accordo con te. No, anche Alfano, perché Alfano lo vogliamo ma dire, no, ora Salvini ha l'opposizione Alfano, Salvini... io dico la Boschi è incredibile perché effettivamente se non c'è Renzi non ci deve essere neanche la Boschi, questo è ovvio, però insomma. Ma Alfano agli esteri, un commento subito su Alfano agli esteri. Ma questa è una mucchiata, non è un governo. Alfano, che ha fallito da tutti i punti di vista come ministro dell'interno, viene premiato. E io me lo vedo al tavolo con Trump e Putin. Trump, Putin e Alfano. Cioè, ma vi rendete conto? Ma non è detto che accada, però. Cioè, no, ma io spero che salti prima, c'è il G7 a Taormina a fine maggio, se rimane un minimo di parvenza di democrazia a fine maggio ci sarà un altro Parlamento e un altro governo, mi auguro, quindi non tira quest'aria. Beh, io so che c'è gente che tira il vitalizio in autunno, c'è gente che non verrà più rieletta nella vita e quindi farà carte false, però prendere in giro 32 milioni di persone che hanno votato solo una settimana fa, sia per il sì che per il no, che hanno espresso voglia di partecipare. Cioè tu dici che questo governo, è peggio di quello di prima, ma dai, è la fotocopia in peggio di quella di prima, con il manuale Cencelli, proprio non prima Repubblica, paleolitico. Questo è il governo del paleolitico. Vabbè, ma è uguale a quello precedente, in realtà è uguale, dai, diciamo. È uguale in peggio. Pare è che Verdini resti fuori, però, pare che Verdini... Sono emozionato. Ma io ricordo che Gentiloni è quello che disse che bisogna cedere sovranità italiana all'Europa, sì, che disse che non avevamo pagato il riscatto per le due frescone che erano andate in giro per il le mondo. Le due Simona, le famose due quello Simona. Che ha detto che avrebbe vinto la Clinton perché Trump sarebbe stato un disastro, ma e questo fa il Presidente del Consiglio. Io mi metto nei panni di chi sta tornando a casa in tangenziale dal primo gennaio, grazie al decreto fiscale del governo Renzi, allo spesometro trimestrale come partita adesso... e si sente Alfano agli esteri. Alfano agli esteri. Anche per me non è una notizia. Lotti allo sport. Sì, lotti allo sport. La Boschi sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio. Ecco, una volta c'era Gianni Letta, siamo passati da Gianni Letta alla Maria Elena. Beh, dal punto di vista estetico... Ma sono contenti i risparmiatori di Banca Etruria. Però dal punto di vista estetico non è... Perché la Boschi, secondo te, che fine doveva fare, secondo te? Ma era lei che aveva detto mi dimetto se è stata... Lascio la politica, anche Renzi. Riforma. Ha detto anche lei, lascio la politica. No, ma il posto migliore per la Boschi, secondo te, qual è? Ma no, un posto allo sportello di Banca Etruria a rispondere a uno dei migliaia di truffati da parenti che passano. Ma non credo che la Banca Etruria nuova o quella che resta eccetera ci vogliano la Boschi allo sportello. Vabbè, comunque seriamente parlando, se si vuole una legge elettorale in 15 giorni entro Natale la si approva, noi abbiamo proposto il Mattarellum, è già stato usato, è lì, basta, sono 4 righe in Parlamento e poi persone serie entro febbraio vanno a votare, se si vuole. No, ma è evidente che nessuno voleva, dai, insomma, questo mi pare chiaro. Io ho detto sin dall'inizio, David, che per andare a votare non è che ci voglia poi tutta questa cosa. Ma infatti c'è un governo che ha questo obiettivo. Ma il governo non c'entra niente con la legge elettorale. La legge elettorale si può fare anche senza governo, ma è chiaro. Si può fare, ci sono. I governi nascono e muoiono in Parlamento. Hanno la maggioranza per dare la fiducia. Quello è scontato, dai, insomma, stai dicendo delle cose scontate. Però è evidente. Io anche sono per andare più presto alle urne, ovviamente. È evidente. però almeno su questo siamo d'accordo. Ma non c'è dubbio, e sono anche non scandalizzato, perché non sono scandalizzato, ma secondo me è detta con linguaggio, come dire, come direbbero alla BBC, una puttanata mega galattica aver rimesso la signora Boschi nella cabina di comando. Se non c'è Renzi, non ci deve essere promossa. Promossa, perché il ruolo più importante di quello precedente. Un ruolo più importante? Come no? Promossa. Parenzo, promossa, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, gestisce tutti i dossier più importanti. Tutte le partite dal Jobs Act. Ecco, quella mi pare la scelta più folle. Sul resto, Gentiloni è una bravissima persona. Ma che vuol dire brava persona? Brava persona, nessuno mette in dubbio, dica un criminale. È una persona molto per bene. Ma com'è un traditore, lo consideri Gentiloni tu? Ma no, ma sarebbe perfino eccessivo. Ma chi lo conosce? Vabbè, ho capito, chi lo conosce? Non usiamo aggettivi a sproposito. È una persona... Un signor nessuno. È arrivato terzo alle primarie di Roma dietro Ignazio Marino. Sì, quello è vero. Il presidente del Consiglio italiano che va a trattare con le altre cose sul tavolo. Beh, quello è vero, quello è vero. Ma cosa c'entra? Terzo dietro Marino alle primarie sì, per diciamo Roma. Che se si presenta non piglia un voto. Di suo non piglia un voto, Parenzo. Cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente. Ma che vuol dire questo? Ma Salvini vuole dire che non è uno che ha grande consenso personale nel paese. Dai, no, ma scusa. Adesso, 32 milioni di persone, sia per il sì che per il no, che hanno votato domenica scorsa, si meritano un... Sai quanta gente mi sta scrivendo? Ah beh, però se è così cosa serve che io vada a votare? Se è così per non mandatemi più a votare per il Parlamento? No, però si è votato, se vuoi, anche chi ha votato no, forse per mandare a casa Renzi. Ma non è che si è detto subito alle urne, si fa una legge elettorale. Ma si è votato per scegliere la Costituzione. La gente ha detto, voglio scegliere la mia Costituzione. No, la gente ha detto no a Renzi, dai. La gente ha detto no a Renzi e ci presentano un governo che è la fotocopia del governo Renzi, tranne Renzi. Dai, questa è la realtà politica dei fatti. Che uno la veda dalla parte di Salvini o non dalla parte di Salvini. La gente ha votato 60% no a Renzi. Risultato? Il governo è esattamente lo stesso con gli stessi ministri. Questo è un dato di fatto. Ragazzi, non si può negare questa roba qua. 60% ha votato no a Renzi. Anche la Costituzione, ma la riforma costituzionale no a Renzi. Si presenta lo stesso governo praticamente senza Renzi, che ha detto che non avrebbe più fatto parte, con la figura principale della riforma sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ma ragazzi, ma questo è... Fermi tutti, 30 secondi. La zanzara è un meraviglioso allucinogeno. Peccato che dopo 2 ore si ritorni alla cupa realtà. La zanzara. Allora, siamo con Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, nel giorno della formazione del governo Gentiloni, che a mio parere è uguale al governo di prima, tranne Renzi, che non è poco naturalmente, però c'è Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, cosa abbastanza incredibile dopo quello che è successo il 4 dicembre. Questo si potrà dirlo, Parenzo, no? Lo si potrà dire o no? Almeno questo sì. Senti, Matteo, ma è vero che hai scazzato al telefono con Silvio, con Berlusconi, in maniera pazzesca? Cioè, c'è una divergenza... No, l'ho letto anch'io, non ho telefonato. Ci sarà qualcosa di vero, ho letto addirittura la telefonata, com'è andata? Tu gli hai rimproverato di essere troppo morbido nei confronti di Gentiloni, cosa che è vera peraltro, che diversi esponenti di Forza Italia non è che sparano a zero contro Gentiloni, tutt'altro. No, ma se alcune cose le penso le dico, mi ricordo le telefonate che faccio, l'ultima l'ho fatta quando avevo mia figlia in macchina che tornavo da Vezza d'Oglio in galleria, ma abbiamo parlato di altro, di legge elettorale, di elezioni subito, e lui concordava su questo, quindi che poi ci sia in Forza Italia qualcuno che punta a tirarle in lungo, qualcuno che tira il 2018, qualcuno che in Europa sta bello tranquillo alle spalle della Merkel, e altro paio di maniche, però le telefonate che faccio me le ricordo. D'accordo, però la telefonata è molto dettagliata, quello che ho letto. No, ma ragazzi... ho capito, sì, tu sei il protagonista, evidentemente, però spesso... Al telefono di solito si è in due, a meno che qualcun altro ascolti. Tu lui ha detto che non capisci niente di politica, lui non capisci niente di politica. Ma questo può essere, non me l'ha detto al telefono, magari lo pensa, però lo pensa. La telefonata non esiste, se ti fa piacere ti dico il contrario. No, non mi fa piacere, è nulla, la verità. No, ho fatto altre telefonate con altre persone, ma la telefonata con Berlusconi di cui ho letto sorridendone non c'è. Nell'era della post, ma è vero o no che Forza Italia non è per le elezioni subito, o comunque ha un occhio di riguardo nei confronti di Gentiloni, perché Gentiloni quando era ministro delle comunicazioni non è stato cattivo con Mediaset, c'è questa roba o no? Può esserci qualcuno in Forza Italia che fa questo pensiero, immagino non Berlusconi, immagino l'universo, non Berlusconi, come qualcuno in Forza Italia ha votato sì al referendum, come qualcuno, io domani mattina all'alba vado a Strasburgo, e Forza Italia governa col PD, con Renzi, cioè, qui dice, con la Renzi, l'Europa. Ci dice Salvini, quindi, ma che stai sicuramente facendo? Sicuramente una parte di Forza Italia che tira ad andare a votare il più tardi possibile, non Berlusconi e non Totti e non i dirigenti, immagino. Salvini, ma che cosa stai facendo? È ora di finirla con gli inciuci. Berlusconi, non capisci nulla di politica, con le tue posizioni lepeniste ed estremiste non ci farai mai vincere. Che poi è la stessa cosa che dice Bossi, per quanto possa contare Bossi, insomma. Mi fa piacere, però ripeto, piacere non ti può fare. Chi è che riporta la telefonata per mia curiosità? No, boh, Affari Italiani, credo. Ma che cosa stai facendo? Vogliamo mandare a casa il PD o no? È ora di finirla con gli inciuci. Berlusconi, saresti tu, non hai mai detto queste frasi? No, al telefono con Berlusconi no. Sei tu che non capisci di politica e con le tue passioni, le posizioni lepeniste ed estremiste non ci farai mai vincere. Così. No, ma quelli possono essere retroscena. A parte il fatto che le posizioni cosiddette lepeniste ed estremiste sono quelle di maggior buonsenso, altro che l'estremismo è quello della Merkel e quello dei Parenzo, secondo me, l'estremismo. Il resto è legittima difesa. Ma comunque... sì, perché chi parla di immigrazione da coccolare, da continuare a... di fronte al dottor Bartolo, ma sai chi è? Sì, no? è certo. Ma ridaglio questo dottor Bartolo, ma chi cazzo è? Cioè... Era candidato al Nobel. Italiane su 100 non riescono a pagare il mutuo e l'affitto a fine mese. È un uomo da solo. Sì, però Davide, ci stai sfragagnando, ci stai sfragassando i coglioni da tre giorni con questo dottore. Va benissimo, in Italia succede anche altro. No, ma sta facendo di più, nel silenzio delle istituzioni, sta formando i medici per fare il va bene, pazienza, hai già fatto la tua marchetta, non c'è bisogno. Ma è una cosa fondamentale. Per sai la salute medici di... sono Salvini... eroi dei pronto soccorso senza arrivare agli onori delle cronache. Ma non c'è allora, dai. Ma non c'è dubbio. Non preferirei che avesse meno lavoro da fare, perché uno Stato serio l'immigrazione la regola, la limita, la controlla. Scusami, tu con 6.000 minori che sono oddio, arrivati qui, oddio, ma che pamano! Con 6.000 bambini, ancora. Che faresti con 6.000 bambini? Vieni a vedere le carte. Ma bambini dovrebbero essere messi in condizione qui. Di non salire su un barcone. Vieni a vedere il cimitero delle barche qua, tu oltre che dei bambini. Tu sei un civile che piazzi 6.000 bambini. Vieni a Lampedusa a vedere il cimitero dei bambini. Ma si dovrebbe impedire a questi bambini di arrivare, questo è il punto. Ma poi, siamo d'accordo. Ma poi è certo che nessuno dice che bisogna sgozzarli quei bambini. Chi dice che bisogna sgozzarli? Che cazzo vuol dire? Nessuno dice che bisogna scuoiarli vivi, no? Andate a vedere, io vorrei. Ma chi se ne frega? Li andiamo a vedere allora? Benissimo, curiamoli. Prima di vomitare odio. Ma che odio? Ho detto che bisogna curarli. Bisogna qui. Voglio vedere. Ma che fate un monumento a Bartolo quando ma cosa c'è? Ma... Che li salva. Io veramente ma veramente sei malato? Cioè, sottovoce che quei bambini morti sono sulla coscienza di quelli di come chi? Parenzo, che gli fanno immaginare che si possa partire e in Italia. Senti, ma Alfano è stato promosso? Alfano è stato promosso, secondo te? Eh beh, evidente, ministro degli esteri, rappresenta l'Italia in giro per il mondo. Che succede? Io mi vergogno. Ti vergogni? Io mi vergogno a essere rappresentato da Alfano in giro per il mondo, mi vergogno profondamente. Ma quando verrà a Strasburgo che farai al Parlamento Europeo? Te ne andrai? Ma non lo so, ma spero che il governo cada prima e non riesca a mettere piede a Strasburgo, ma con tutto l'affetto sarò una bravissima persona amabile, persona simpatica, persona onesta, che però non può fare il ministro. Non può fare il ministro degli esteri, secondo te? No, ma non può fare il ministro in generale, il ministro di nulla. Posso prima di salutare mandare un abbraccio ad Alessandro Milan? Come no, certo, assolutamente. Bravo. Come no, bravo. Assolutamente. Mando un mega abbraccione ad Alessandro Milan, bravo. E chi ci ascolta, se va sulla sua pagina Facebook, legge delle righe di una forza e di un'umanità straordinaria. Bravo, l'avrei fatto io dopo a nome mio, ma insomma adesso dopo lo facciamo lo stesso. Bravo. Senti, guarda che filastrocca per Natale che ho, guarda, senti. Eccolo. Senti, il migrante vien di notte con le scarpe tutte rotte, vien dall'Africa in barcone a rubarvi la pensione. Ma che stronzata. Nell'hotel la vita è bella, nel frattempo ti accoltella. Poi verrà forse arrestato e l'indomani rilasciato. Guarda che non è male. Ma perché porcheria? No, non è ma immigrante viene di notte con le scarpe tutte il leader di un partito, ma non dice mi pare carina questa cozzaglia razzista. Ma non è razzista, dai, immigrante viene di notte con le scarpe tutte rotte. Ma ragazzi, ma voi non avete idea di cosa c'è. Ma sorridi che ti fa bene alla vita. Ma non c'è niente da sorridere di fronte ai morti. Immigrante viene da ridere di fronte ai morti. 6.000 bambini sono arrivati non accompagnati. Senti, hai... E non dovrebbero partire. Ma sai che il Pontificio Istituto Missioni Estere con 200 euro all'anno aiuta un bambino a stare bene a casa sua dall'altra parte del Mediterraneo. Noi ne spendiamo 35 euro al giorno per aiutare un adulto ad andare in giro a rompere le palle. Ripetere, però non sono meglio spesi quei 200 euro dati ai missionari che aiutano i bambini a non scappare? Allora, come il migrante viene di notte con le scarpe tutte rotte, viene dall'Africa in barcone a rubarvi la pensione. Nell'hotel la vita è bella, nel frattempo ti accoltella, poi verrà forse arrestato e l'indomani rilasciato. Ciao. La Zanzara. Credo che non ci sia nulla di più liberatorio che urinare nel lavandino dell'avvocato, dello studio legale, della moglie da cui ti stai separando. Credo che la prossima volta anche la farò un po' fuori. Ora ci rifletto. Come sfrigola il guanciale. Allora, grande litigata ieri, caro Parenzo, a Domenica Live con record di ascolti tra Filippo Facci, che ormai si presta a qualsiasi cosa. Il mio amico Filippo ha deciso che si è rotto il cazzo di stare a casa e va dalla D'Urso a fare casino con l'Emme e dintorni. Ho visto su Twitter che è stata molto ripresa, gli hanno spaccato gli occhiali, mi pare, questo dici? Sì, una cosa del genere. Praticamente il litigio era la dieta L'Emme funziona o non funziona? La cosa è sempre la stessa. Mettono L'Emme con qualche cicciona, qualcuna che dice che la sua dieta funziona, qualcuna che dice invece che non funziona, eccetera, eccetera. Collaudato, insomma, di solito Facci sta dalla parte di L'Emme, tant'è che se la prende contro questa, com'è che si chiama? Villa, che contesta... Che contesta L'Emme. È un po' complicato da spiegare, però la sostanza è questa. Sì. Questo è troppo, scusate. Perché questo qua mi guarda una discussione, vedo una persona che può non piacere, arrogante, tutto quello che volete, ma ha comunque una competenza, ha un seguito, quello che volete. Vedo un professionista, vedo una persona che ha qualcosa da raccontare. E qua si viene a dire che l'arroganza ce l'hanno loro quando ci sono, scusate, compresa la signora in collegamento che è dimagrita solo grazie a un'operazione all'intestino, tre sbruffone che non hanno un vero mestiere, che si permettono di incolpare gli altri, e una testimone a te ho detto buffone. A un certo punto questa villa gli dà una sberla. Dai, ma ogni domenica è così. Dai, Facci. Facci, ti prego. Dai, Facci. Ma secondo te? Prego, Facci. Ho paura. Facci, dai. Dai. Andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità, per favore. Scusi, pubblicità. Se eri un uomo, ti spaccavo la faccia. Intanto sta giurando il governo, eh. Mentre mandiamo L'Emme, Facci, Villa, il casino dalla D'Urso, sta giurando il ministro Finocchiaro. Pronto. Dopodiché, l'avete visto, si è alzata, mi ha dato uno schiaffo, mi ha rotto gli occhiali. Io non ho dato uno schiaffo. Dopodiché, io ho detto nella pausa pubblicitaria, perché io lo dico e lo ripeto, se fossi stata un uomo ti avrei rotto la faccia, l'ho detto. E vabbè ragazzi, un po' di ascoltatori, dai, Biagio da Pisa, vai, Biagio. Pronto? Sì, Biagio. Volevo parlare con Parenzo, volevo dirgli una cosa. Sì. Io non sono mai stato a Lampedusa a vedere le tombe di 6.000 bambini, però io sono stato a Pisa alla stazione, ci vado spesso. Tu sei stato a Pisa alla stazione? Sì, sono passato qualche mese fa. Allora? E cosa hai visto? Dimmi cosa hai visto. Ho visto che c'era una persona con una faccia di cazzo ed era la tua. Semplice. semplice, semplice quando non ci vivi in un posto. Guarda, adesso ti ho risposto è così facile, perché non può giocare con la vita delle persone. Quando devi andare a prendere la tua ragazza alle 11 dalla stazione. Guarda, non e c'entrano niente i 6.000 minori. Ma spacciatori che ti guardano male. Io ma sono 1,90 m per 90 kg. Quello non c'entra nulla. Fallo parlare un attimo, Biagio. Allora che cosa ti rimprovero? Io sono 1,90 m per 90 kg. Ho fatto kickbox, faccio palestra e ma ho paura quando vado da solo alla ma stazione. Che c'entra questo con vengono con la lì, ti vogliono spacciare droga, di tutto, vedi, ma cosa c'entra dappertutto. Questo? La mia ragazza, per tornare ma da Firenze, ti tocca mettersi ancora davanti in cima al treno, vicino all'autista, hai capito? Biagio dice così perché è contro. Paura, è contro. Hanno stupato te ragazze, non lo dicono ai telegiornali. Beh, adesso non, non lo, dicono, lo dicono. Di solito qui lo dicono. Non so. Lo dicono. Di solito lo dicono lo sempre quando ma stuprano. Lo quando alcuni stranieri stuprano un'italiana, lo dicono sempre. Il contrario ma un po' meno. Tante volte non lo dicono quando le italiane sono riuscite a scappare. Capito? Allora lo non ho capito, Biagio. Tu. Scappa il morto. Perché ti è partita questa cosa? Perché tu sei, ovviamente, dici, sei contro l'immigrazione indiscriminata, no? No, io non sono contro l'immigrazione in generale. Se te vieni nel nostro paese, lavori e paghi le tasse come tutti noi, cioè tu bene, non vuoi gente in mezzo ai coglioni non che non fa niente per Salvini, per quello o quell'altro. Io sono per gli italiani che lavorano e gli stranieri che lavorano. Tu dici c'è troppa gente in giro che non fa un cazzo. Bravo, bravo, è normale che ti metti c'entra a spacciare. I bar a Pisa non ce la fanno più, non ce la fanno più. Ma questo cosa c'entra? Fuori. Ma gli hai dato dell'idiota? Gli hai dato vai della a prendere un aperitivo. Ma certo, gli hai dato dell'idiota, certo. Stiamo parlando di un'altra cosa. Guarda, sarebbe... Ma che un'altra cosa, è l'immigrazione, ma quale altra cosa? Mi farebbe, io penso che a tutti voi che parlate da casa e che ora comincerete ad invadere i centralini di Radio 24 all'800 24 00 24 per insultare chi qui da Lampedusa lavora per salvare le vite. Ma chi, se... non ma è chi insulta nessuno? Ma chi insulta io questi qua? Ma bene a ma tutti chi ha quanti insultato voi chi venire qui? Ma chi se ne frega? Il cimitero delle navi. Ma non me ne importa niente il cimitero delle navi. Ma guarda i vivi, non guardare morti. Posto di civiltà che c'è qui. Vabbè. E vedere le bare dei bambini. Ma che vuol quello dire? Ma che dice? Bene. Ma quelli cosa vuol dire? Farebbe bene a tutti quanti. Muoiono milioni di persone sulle strade tutti i giorni. Sulle... Ha ragione Biagio, ha ragione Biagio, ha ragione Biagio. Cosa vuol dire? Stai a guardare morti. Ha ragione Biagio, bisogna colpire quelli che partono. Colpire quelli che partono. È il momento dello stupido. Colpire quelli che partono, quelli che incentivano a partire, quelli che dicono si può arrivare qua. Questi bisogna colpire. Ma tu sei d'accordo con questo idiota? È il problema. Ma sarà diverso morire per strada che morire perché scappi da una guerra. Ma ci sono un sacco di... Lui ha detto ci sono un sacco di morti, questo voleva dire. Cioè, non ma è che ci sono... Certo, io voglio dire questo, io non dico che non devono venire qui quelli che scappano dalla guerra, io dico che devono venire qui quelli che si meritano. L'80%, di l'80% sono irregolari, non hanno diritto a stare qui. Ragazzi, non c'entrano bravo, niente con ragazzi, le guerre, punto e basta. Con un medico. Ma chi se ne frega? Quelli te, fanno un bel lavoro, nessuno. È questo che mi fa incazzare. Nessuno nega che quelli fanno un bel lavoro, chi se ne frega? Non è quello il punto. Diamogli una medaglia, aumentiamogli lo stipendio, ma chi se ne frega? È chiaro che devono fare quel mestiere lì, va benissimo che lo facciano. Abbiano il doppio dello stipendio, gli essere un sacco di soldi. E chi nega questo lavoro? Luciano della provincia di Lucca, non mi fate incazzare, Luciano, provincia di Lucca. È chiaro che quelli vanno premiati, che sono dei benemeriti, che sono dei geni. Chi dice il contrario? Ma non è quello il punto. Luciano, dai. Giuseppe, ciao, ascolta. Se mi fa la cortesia di darmi almeno il piccolo spazio, e io sono della Lega, tanto per intendersi, vorrei dire una cosa a Parenzo. Ecco il dottor Bartolo, ecco, prima ecco, che ecco venissero a pensare tutti gli immigrati, quanto guadagnava e quanto guadagna oggi? Me lo dice e con tutte le lei è stupido perché lei è uno stupido perché è un dipendente del servizio sanitario nazionale e guadagna 2000 euro al mese. Adesso fammi parlare un secondo. Lei è un calunniatore perché guadagna 2000 euro al mese. Lei è un calunniatore. Giuseppe, lei è un calunniatore. Una cosa, 5 secondi. Senti questa. Ma perché gli hai dato del pezzo di merda? Dimmi. Giuseppe, va bene, scusa. Lei è un calunniatore. Va bene, Giuseppe. Lei è un infame Giuseppe, calunniatore. Infame calunniatore. Un infame calunniatore. Che quel signore lì da solo con Giuseppe, altre 8 persone dimmi lavora 24 ore su 24. Lei è un calunniatore infame. Dimmi. Calunniatore. Dai. È un calunniatore. Sarei disposto, guarda, te lo giuro. Te lo giuro, Cruciani, sono disposto a pagare io il viaggio a questo infame. Sono disposto a pagare io il viaggio d'aereo a questo infame per venire qui a Lampedusa. Sono disposto a pagare io per vedere e lo pago io il viaggio, calunniatore infame, e lo pago io il viaggio. 5 secondi. Vabbè, dimmi, dimmi, Luciano, dimmi. Lo pago io, miserabile, viaggio. Senti questa, dedicata a Bartolo e a Parenzo. Integrazione. Entra in casa tua, non chiede permesso, ti guarda con odio ed usa violenza. Prende quello che c'è, a volte anche la vita. Per lui non conta, la legge dell'accoglienza lo protegge. Ti lascia sgomento, spaventato e poi arrabbiato verso tutto e tutti. Da oggi ti ha rubato la vita. Ti piace questa? Chi è questo? Dimmi. Questo sono io, Lucio Matto. Luciano Mattonai. Dico il mio nome e cognome, Lucio Matto. Lucio questo Matto. L'ho detta io, è un pensiero mio. Perché sei matto? Ne potrei dire molte. Ma ripetila bene, ripetila allora, bene. Allora, integrazione. Sì. Entra in casa tua. Sì. Non chiede permesso. Ti guarda con odio ed usa violenza. Prende quello che c'è, a volte anche la vita. Per lui non conta, la legge dell'accoglienza lo protegge. Ti lascia sgomento, spaventato, incazzato verso tutto e tutti. Da oggi ti ha rubato la vita. Ciao Luciano. Ciao. La vostra trasmissione ha fuorviato completamente mio figlio, non lo riconosco più. La Zanzara. Antonio da Bari, vai. Sì, buonasera, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Senti, io volevo chiedere, fare una domanda a Parenzo, prima che si incazzi, ma in maniera molto chiara. Io ho fatto un viaggio a New York e ho fatto una gita nel New Jersey circa l'integrazione razziale. E volevo capire come mai la comunità ebraica statunitense, pur avendo, diciamo, cittadinanza americana, vive isolata, con scuole dedicate. No, ma non apro un dibattito su questa roba qui, che non apro un dibattito, che non interessa a nessuno. No, non ho capito, Antonio, non ho capito bene, mi puoi spiegare? Ma non c'è nessuno diviso. Aspetta. New York, ho fatto un viaggio, sono andato allora? Nel New Jersey, ho attraversato il ponte di Brooklyn e mi hanno mostrato la comunità ebraica. Ma chi se ne frega, allora? Appunto. E allora non si integrano, hanno le loro scuole. Ma non dire stronzate, dai, su Antonio, non dire puttanate, dai, su queste cose non qui. Non dire puttanate. Ma dai, questo su. Questo è lo stesso problema che stanno avendo in Francia. Sì, gli ebrei non si integrano, adesso, gli ebrei non si integrano. Pensando di integrare adesso, è arrivato questo è arrivato... non si sono mai integrati. Ma che tu, perché lo mando a fare in culo, se no guarda. Ma che c'entra adesso? No, ma vuoi dire che bugia? Le donne le fanno andare in giro calve. Ma chi? Tutte totalmente senza capelli. Ma chi? Si vestono tutti alla stessa maniera con codini. Ma dov'è l'integrazione? Ma chi? Gli ebrei newyorkesi. Ma amico mio Antonio, New Jersey. Ma non sai un cazzo, scusa. Adesso invece poi chiamerà quell'altro. Ma no, io ho passeggiato. Sai cosa c'è? No, quello è in ospedale al San Raffaele. Ah, come mai? Per un problema di sostituzione di valvole al cuore. Di valvole al cuore è stato ricoverato, portato oggi dal alcuni... Ma sapere, posso adesso, per carità, facciamo tanti auguri anche a Mauro D'Amato, figuriamoci. No, lo dico senza alcuna ironia. Come faccio a saperlo? Mi hanno comunicato praticamente minuto per minuto. Tutte le cose, io dico, un professionista affermato di 50 anni che conduce alla radio un programma di grande successo, si deve, scrive sul Quotidiano Libero diretto magistralmente da Vittorio Feltri, si deve occupare nel giorno della nomina del nuovo governo della salute di Mauro da Mantova. Di uno ascoltatore, ma non uno qualunque, Mauro da Mantova. Cioè, amico mio, capisci che il mondo capisce qui la differenza. È qui la grandezza, è qui la grandezza, è qui la grandezza. Io mi occupo anche della vita quotidiana di Mauro da Mantova, che è stato ricoverato, credo oggi. Mi manderà un messaggio, mi manderà una cosa. Questo devo dire, mi dispiace. È stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, il signor Mauro da Mantova, per un piccolo problema al cuore, spero risolvibile, perché aveva delle cose da sostituire, ma come non ti auguravi la morte fino a poco tempo fa, signor Mauro da Mantova? No, io non auguro la morte a nessuno, guarda. Meno male, tranne che ai gerarchi nazisti. Potresti augurargli adesso una rapida guarigione, potresti augurargli. Semplicemente è stappato una bottiglia di champagne alla morte del signor Prebi, che su questo, come vabbè, ricorderai, non c'è dubbio. Ma invece per vuoi augurare riguarda, a Mauro da Mantova una guarigione io rapida? Io ti auguro una pronta guarigione, magari di ritornare più in sé, ecco, più in sé. Cioè, perché dici che è completamente... Beh, completamente di fatto. Su questo è un dato di fatto, guarda, mi dispiace. Cioè che è completamente pazzo, dici? Totalmente pazzo, anche perché... Sai di chi è San Raffaele? Di Berlusconi. Sai chi è? Sì, di sai che si chiama Raffaele? Perché? Perché è cugino di De Benedetti. Ma no, è di Berlusconi. Non è vero, no, di Berlusconi in realtà non è sai vero. Sai perché? Sai perché? Ma non è di De Benedetti sai San Raffaele. Sai che c'è l'angelo d'oro su San Raffaele in cima? Sai chi l'ha messo? Chi l'ha messo? Gli ebrei. No, come un angelo d'oro, scusami. È Monti. È stato Monti. Ma no, ma Monti. Ma come Monti? Non c'entra niente. Monti! Poveretto, dai, che si rimette a presto, che è un buon matto, un po' romatto, dai. Fermo, fermo. Traffico, veio chi là, vero chi là. La zanzara. Ma sai dov'è che ha fatto le prime esperienze politiche il signor Gentiloni? Ma allora un momento per cortesia, buonasera agli ascoltatori di questa oddio, immonda radio della cosiddetta Confindustria. Sono Mario Capanna. Allora, oggi è stato nominato presidente del Consiglio dei Ministri. No, del Consiglio dei Ministri, comunque. Un signore che si chiama Gentiloni. Sì, allora... Gentiloni è iniziato con me, Mario Capanna, Democrazia Proletaria. Era un compagno catanga, non tirava mai fuori la spranga, stava sempre in seconda fila, ma ha imparato le tecniche di gatto selvaggio, cioè di occupazione, di interruzione di pubblico servizio. Ma veramente? Con me entrava nelle università e scassava tutto. E i poliziotti ma non è vero, sembra così, sembra così moderato, sembra così. Stava sempre dietro in terza linea, ma comunque partecipava alle assemblee con noi compagni e compagni. Allora io ringrazio intanto ringrazio questa Radio 24, perché da oggi sarà la possibilità ogni giorno di dettagliare quello che fa il compagno Gentiloni al governo del... È un po' come se fosse andato Mario Capanna, ecco, diciamo. Ma no, diciamo, no, ma questo non credo, ha posizioni diverse ormai, no? Cioè... Mario, come stai? Mario Capanna è con noi! Molto bene, molto il bene! Vero Capanna, il vero Capanna! Come andiamo? Ti è piaciuta l'imitazione parenziana? Ormai qui spopola, Qui spopola. Sì, so che è diventato una cosa che va alla grande, devo dire, imita bene la mia vociaccia. Senti Mario, ma io non ho capito, il nuovo presidente del Consiglio italiano si è formato praticamente con te a Democrazia Proletaria, o no? Un momento. Eh? Così dicono, ma io non me ne sono, sinceramente non me ne sono accorto. Cioè, in che senso, scusa? No. Nel senso che ho letto che è venuto anche a Milano, ha partecipato alla manifestazione nel secondo anniversario della strage di Piazza Fontana. Molto bene. E che poi abbiamo fatto un comizio a Roma, se lo ricorda Carmine Fotia, nel 1973. Addirittura. Sì, esatto, però francamente io non me lo ricordo. Si vede che questa era la cifra del nuovo presidente del Consiglio fin da allora, cioè, no? Per stare in seconda fila e così non apparire e così via. Ma è la verità, non è che lo cioè, stai dicendo praticamente che non è uno che spicca per no? Per personalità, ecco Mario. Oddio, così parrebbe, basta vedere il governo che ha fatto. Adesso però per un attimo evitate il tono scherzoso. Fatemi dire una cosa seria. Questo governo è peggio del governo Renzi. Perché? Sì. Perché, questo è vero, dire, pure, sono quasi d'accordo io. No, ma rimette tutti i renziani al proprio posto. Sì. A partire dalla Boschi, addirittura con un ruolo aumentato, no? Sono segretario alla Presidenza del Consiglio. Sì, sì. Quindi è la controllatrice diretta per conto di Renzi dell'operato del Presidente del Consiglio. Sì. Mette Minniti agli interni per cercare di tacitare, come dire, la sponda di D'Alema, ex e così via. Alfano agli esteri, ragazzi. Alfano agli esteri che non ne sa assolutamente nulla. La Madia al loro posto, lascia la Madia al suo posto. Cioè, voglio dire, due donne, la Boschi da una parte, è una delle principali responsabili con Matteo Renzi della disfatta del no sul referendum. Assolutamente. E la Madia che ha fatto una controriforma della pubblica amministrazione. Vabbè, dai. No, bocciatagli dalla Corte Costituzionale. Ah, tu dici per questa cosa. Anziché cacciarli via. Anche vedi, bella, anziché Parenzo questa, anziché cacciarli via. Guardate, questo è un governo contro l'Italia. Volete scommettere allora? No, però ha ragione, è un governo contro quelli che hanno votato, il 60% di gente che ha votato no, su questo non c'è dubbio. No, è contro l'Italia, perché cosa farà? Come contro l'Italia? Fatemi dire, primo, farà una manica di soldi pubblici al Monte dei Paschi. Questo dovresti essere d'accordo, no, tu, vecchio. Per salvare le banche, no? Tu dovresti essere d'accordo, no? Le banche che falliscono, falliscono. Ma che cacchio di facciamo fallire le banche? Sì, facciamo fallire le banche. Che discorso è? Una banca, vanno messi gli amministratori in galera e dopodiché falliscono, no? Bello, amministratori in galera e poi falliscono, stupendo. Secondo. Però la legge elettorale, sì, ovviamente, in sostanza, per cercare di fregare il Movimento 5 Stelle. Sì. E dopodiché ditemi che altro fa. Con ma... Renzi che allora adesso ma oggi voteresti 5 Stelle tu, ma Mario? No, mi fate lanciare un guanto di sfida voi due? Cioè la zanzara. Lanciamo questo guanto. Lanciamolo. Allora, io vorrei che voi da giornalisti sebbene oclocratici, assolutamente oclocratici, sì. Però non privi di qualche coraggio, Sì. Vorrei che d'ora in avanti, a partire da domani sera. Sì. In apertura della zanzara mettiate le famose parole di Renzi quando disse se perdi il referendum, amico mio, lo stiamo già facendo, amico mio, è da lo questa stiamo già facendo. Lo stiamo già facendo, è da oggi che lo facciamo. No. Te lo faccio sentire, guarda, l'abbiamo fatto, mandato già tre volte, è tre volte che lo mando, ogni giorno lo voglio mandare per una settimana, amico mio Capanna, per una settimana, te lo faccio riascoltare di nuovo, guarda, lo sto mandando dall'inizio della trasmissione, è una cosa telepatica quella che c'è stata tra noi due, seppure siamo su posizioni molto diverse e ti ho attaccato a lungo, come sai, però su questo siamo d'accordo, ti faccio sentire, senti. Se io perdo, con che faccia rimango? Cioè, scusate, ma... E lei conferma, cioè, qualora si... il referendum... Ma non è che vado a casa, smetto di far politica. Perché, scusi, questa non è personalizzazione, questa è serietà verso i cittadini. Ragazzi, questo è il mio mantra dei prossimi... Fino a Natale metterò questo audio, guarda, almeno fino a Natale, caro. Vedi, Cruciani, che sei il solito riduzionista, non fino a Natale. Fino a quando Renzi non mantiene la promessa e lascia la politica. Ho capito, ma Renzi è... Le battaglie di Capanna, come sono... Ma Renzi è uno di destra, Mario, ma Renzi è uno di destra? Non lo sa manco lui, poveretto. In politica bisogna giudicare non secondo gli schemi ideologici, secondo i fatti, scusami. E il Presidente del Consiglio che ha fottuto l'articolo 18 dello Statuto dei diritti della Nazione. Vabbè, un'intera generazione di studenti e di lavoratori del nostro paese. Gli studenti e i lavoratori. Se l'avesse fatta Berlusconi, probabilmente ci sarebbero state le barricate, ma vi rendete conto? Vabbè, meno male. Le barricate uscite con le sue mani. Ottimo le barricate, ottimo. Dovreste costruisce con le sue mani, con una sapienza scientifica, la propria rotta di Caporetto referendaria, e ancora vuole rompere le balle, ma un minimo di decenza, no? Questo è vero, su questo sono d'accordo. Ma sarebbe il momento magari di occupare qualche fabbrica, di fare qualche bella occupazione prolungata, di fare qualche manifestazione di piazza, ma di quelle serie, però, come altro che ci sarebbe il momento. Occupare, perché non occupi Confindustria? Ti metti a occupi Confindustria, sarebbe ottimo, scusa. State attenti, che un giorno arrivo lì, Ma no, dovresti occupare Confindustria. Occupa il Sole 24 Ore. Non provocatemi perché vengo lì. Occupa il Sole 24 Ore, ti prego. Poveretto, sta deperendo. Cioè, no. È una catastrofe. Come adesso non esagerare. Ma che dice? No, ma scusa, Capanna, dovresti metterti tu alla direzione qui, dovresti avere le leve del comando, cioè occupare. A disposizione, datemi in mano il Sole 24 Ore e ve lo faccio rinascere. Beh, adesso non esageriamo. Provate, ve la fate sotto. Io direi che il governo Gentiloni, per prima cosa dovrebbe cominciare a tagliare i vitalizi. Quello sarebbe ottimo quello. Solo che non può farlo se anche volesse. Non lo so, questo. Andrebbe contro i diritti acquisiti, impossibile. Ma quali diritti acquisiti? Tagliare i vitalizi, tagliare tutti i vitalizi. La direzione del Sole 24 Ore me la date? Vabbè, amico mio, ti devi rivolgersi ai capi di Confindustria qui. Io, fosse per me, non ci sarebbero problemi, figure di occupazione. E allora spendete una buona parola. L'occupazione perenne, Parenza, come si fa? L'occupazione perenne, com'è che è? Ma guardate, è molto semplice, basta fare delle mappe della stanza del Sole 24 Ore, dell'edificio disegnato dal signor Renzo Piano. Bastano 10-15 compagni prendere i punti nevralgici della struttura e a quel punto munirsi di vettovaglie, ovviamente, e distendersi per terra. La polizia in quel caso non vi deve portare fuori di peso, quindi bastano 10 persone per mettere in scacco quella struttura dei padroni. Molto semplice. Senti, Capanna, in conclusione, Gentiloni, come lo consideri, un cretino? No, sarebbe un inetto, un imbecille, una cosa brutta. Però, che ne so, un incapace, dire, una foglia faccia, di fico, una foglia no, di fico. Ma con che faccia? Cioè, voglio dire, ma anche Mattarella, che è tutta la mia stima, no? Ma come fa ad approvare un governo con quei ministri? Amico mio, quello c'è la Costituzione. Che ho capito, ma voglio dire, ma almeno faccia una nota. Lo devo fare perché sono... Vabbè, ma tu che ti ricordi? Ti ricordi una cosa di Gentiloni quando era in Democrazia Proletaria, o no? No, ve l'ho già detto. Non ti ricordi un cazzo? Nulla, zero? Non me ne sono accorto. Non te ne sei nemmeno accorto? È passato lì? Senza iattanza, è la pura verità. Cioè, è trasparente. Vabbè, Mario, ciao, ti saluto. Ciao, caro. Allora, ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Fabio Milano, vai. Sì, eccomi. Dimmi. Vorrei comunicare ai radioascoltatori che abbiamo scoperto finalmente chi è la casta. La casta è il popolo italiano. Perché? Cioè, sono loro la vera casta. Adesso, quando giriamo per strada, noi sappiamo che su 7 persone che vediamo, ogni 6 sono la casta. Perché? Perché sono quelli che hanno votato. Per confermare la casta. No, io non sono d'accordo su questo. Per confermare questa palude che è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi 30 anni. Sì, no, quindi, guarda, è vero che con il no siamo praticamente alla Prima Repubblica, quello che sono vogliamo. Loro il peggio, purtroppo. Sì, però, questa è la cosa drammatica. Però, amico mio, il punto... Perché io posso capire il nostro Capanna, che è la cassa, che è un parassita dello Stato, diciamo così, parassita, che non ha mai sì. cercato di fare nulla, però sì. almeno possiamo comprendere il perché. Cioè, si intasca i suoi bei soldini e rovina il nostro paese. Quello sì, che però io mi rifiuto di... è che i nostri cittadini, in nome non si sa di cosa, facciano affondare il nostro paese. Abbiamo individuato la casta. Scusa, ma non credo per te. Tutti 60... i nostri amici e colleghi che hanno votato no sono la casta. Cioè, ma che sono stupidi? Sono stupidi, sono imbecilli, come dice qualcuno? Sono quelli meno acculturati, sono quelli meno formati, eccetera? Una cosa è certa, sono il male dell'Italia. Ma non è vero, dai, questa è una stronzata. Sì, ma non puoi. La prova plastica, ma il 4 dicembre, Fabio, visto finalmente. Ma non è vero, dai, ma non è vero. Scoperto. E adesso cosa vogliono? Si lamentano anche del governo tecnico. Assurdo. Volete. Parte volete che non è tecnico. La Costituzione, adesso la rispettiamo per file e per segno. No, questo è ragione. Legislatura fino alla scadenza. Questa è la Costituzione. Dobbiamo deciderci. Volete la Costituzione? Su questo hai perfettamente ragione. Gli stessi che si lamentano del nuovo governo che nasce in Parlamento dicendo che è il quarto governo non eletto dagli italiani direttamente, sono gli stessi che probabilmente hanno detto no alla riforma, cioè gli stessi che hanno salvato la Costituzione. E beh, amici, ma adesso la Costituzione ve la pigliate. Siccome la Costituzione prevede il fatto che un governo possa nascere, anzi debba nascere in Parlamento e solo in Parlamento, a prescindere dal voto degli elettori, vi attaccate, come si dice, al chezzo. Ciao. Siete goduria. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruci, ha ragione quell'animalista che si è incatenata lì da voi. È mattina presto, sto camminando qui in campagna. Ah, respiro l'aria fresca. Mizzega, che bello che è, oh, la natura. Aspetta. Alle! E domani si mangia fagiano. Alle, beccato al primo colpo. Sì, sì, è vero, qui facciamo l'elogio della caccia, anche in maniera spudorata. Soprattutto perché ci sono personaggi, caro Parenzo, personaggi che hanno aggredito, vigliacchi, pezzi di merda, schifosi, hanno aggredito un cacciatore. Lo hanno aggredito mentre stava facendo qualcosa con le lepri. Questa è una vergogna. Lasciando delle lepri, mandandoli in ospedale, incappucciati come dei terroristi vicino Mantova. Lo hanno aggredito con calci sulla schiena. Adesso gli hanno fatto oggi un'ecografia, pare che non sia nulla di grave. Comunque è sul lettino d'ospedale. Una vergogna. A me non mi interessa chi sono questi 100% animalisti, anche se loro dicono di no, o altri, non mi interessa, sono dei pezzi di merda, aggrediscono i cacciatori alle spalle. Ma dai, certo. Su. Però il caso più incredibile, caro David, è quello sollevato dalle Iene. Beh, amico mio, che è successo? Amico mio, un fisioterapista. Sì. Il quale, fisioterapista, in realtà, ti vuole mettere un dito nel culo. Come, scusami? Cioè, tu vai là per dire ho un problema. Forse non ho sentito perché qui è andata via la linea, la Berlusconi. Ho un problema al polso, ho un problema, non so che. Al polso. Sì, tu vai là per un problema di fisioterapia e in realtà questo qua ti vuole infilare un dito nel culo. Questi hanno mandato una ragazza, una loro complice, lì a farsi massaggiare, a fare una terapia particolare per il polso. Questo l'ha fatta spogliare e poi a un certo punto ha detto che voleva mettergli un dito, voleva premere un dito nell'ano. Premere un dito nell'ano, amico mio. Mi ha chiesto di spogliarmi, di lasciare sulle mutande. Aveva una specie di bastoncino, continuava a farmi dei discorsi intorno al sesso, ai rapporti anali. Ero convinta che forse aveva il suo perché. Fino a quando? A un certo punto il dito me l'ha messo nell'ano. No, ma mi stai facendo malissimo. Malissimo. Ah. Allora, quando scoperai avrai più sensazioni. Quando scoperai avrai più sensazioni, dice c'entra? Il fisioterapista. Ma che c'entra col polso non poi? Non c'entra nulla. Aspetta, aspetta. Liberiamo ancora il bacino. Dici che va ancora sbloccato. Allora, io se fossi te, se fossi donna, non avrei piacere di scopare queste condizioni qui. Sono bloccata. Ti giri qua sulla pancia, io col dito vado a prendere l'ano. Ma mi metti un dito nell'ano. La muscolatura del bacino è ancora bloccata. Premendo io col dito, si sblocca questa tensione. No, ti prego. Insomma, questa visita al tutto 400 euro, eh? 400 euro per farsi mettere un dito nel culo. Ma dai, su, ragazzi. Questo tizio si chiama Gianluca Di Benedetto. Andate a vedere nel suo profilo su internet, nella sua pagina, Gianluca Di Benedetto. Trentino Alto Adige. Allora, Eugenio da Brindisi, vai, Eugenio. Sì, dimmi. Buonasera, io ce l'ho a morte con Parenzo perché quando sta male un patriota italiano se la rida, appena sta male qualche nero incomincia a fare il cazzone, calma, stiamo calmi, chi sarebbe il patriota italiano, scusa, qualsiasi? Quel ragazzo, non è un patriota, è un italiano. È un italiano. Chi sarebbe che sta male? Chiunque italiano è un patriota, basta. Tutti allora, gli italiani sono patrioti, anche i mafiosi, i camorristi, cioè, tutti patrioti. È un italiano, ma è un italiano. Poi sono problemi loro se vengono arrestati, devono essere arrestati. Un camorrista è un italiano, quindi, però. Ecco, abbiamo già capito che quindi un italiano criminale è migliore di per me è un italiano. Poi se diventa un camorrista, se è un camorrista, se è un mafioso, allora deve essere arrestato. Aspetta, fermo, per fermo. Me lei fermo. È un cretino. Fermo. Sì? Pronto? Risponde la segreteria telefonica di... Allora, non ho capito, Eugenio, che cosa hai detto, scusami. Eugenio! Vabbè, ha attaccato questo cretino. Giuseppe dalla provincia di Ancona, dai. Marcello da Rimini, vai. Ciao Giuseppe, dimmi. Ciao ragazzi. Dimmi. Mi sa che qui il dito in culo ce l'hanno messo a noi. In che senso? Perché 60-40 è andata la votazione del referendum e non è cambiato un cazzo. Il governo è lo stesso. Anzi, la riforma della Costituzione è stata firmata dalla Boschi. Sì. Forse questo non lo so. Cioè, beh, non amico lo mio, ricordate. Ma è questo che l'abbiamo detto, è una cosa che abbiamo detto dall'inizio. Ho capito che l'abbiamo detto, ma questa chi è che ce lo sta buttando promossa. Cioè, chi è? Adesso è andata in un posto di molta più alta responsabilità, non so se più alta responsabilità, diciamo, nel culo agli italiani. È sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, cioè un posto rilevante, passano davanti a lei tutti i dossier. Ma porca troia, cioè, voglio dire, ma che cazzo di cambiamento è? No, ma io sono d'accordo, Marcello. È uno step forward della Madonna politicamente. Calma. Pronto? Sono qui io. Pronto? Sì, eccoci. Ciao Vincenzo, come stai? Vincenzo Danna, ciao. Bene, Giuseppe, come stai tu? Bene, scusami se ti disturbiamo a quest'ora, eh? Sì. Aspetta, aspetta che si... Non sento bene, scusa, aspetta un attimo. Che c'hai? Sì, viva... sì, no, io sono in macchina, forse per questo. Metti viva voce bene, per... non mettere viva voce però. Un attimo. Sta? No, no, non sono in viva voce. Sempre. Come sta il buon vecchio Danna, come sta? Ehi, parente, come sta? Io sto, mi difendo, sono a Lampedusa, tutto bene. Senti, Vincenzo, ma è vero che non darete la fiducia al governo? Vincenzo Danna rappresenta... Sì, sì. Non darete, la, non darete la fiducia? No. Ma come mai? Avevamo chiesto un riconoscimento. Cioè, le avevate chiesto delle poltrone. Cioè le poltrone, dice Parenzo. Per essere presente in consiglio dei ministri, mi pare poltrone, che poltrone. Gentiloni non l'abbia valutata positivamente, offrendoci ovviamente montanti compensativi che a noi non... Terezzo. Cioè, tipo che cosa? Sottosegretari, cose del genere? Sottosegretari. Cioè, voleva che è un riconoscimento. Poltrone, dai, poltrone, poltrone. Non voleva da nessuna parte. Possiamo dire in sostanza che vi hanno pisciato tutti, dai. No, vabbè, adesso Parenzo, possiamo dire che così come abbiamo appoggiato la stagione delle riforme di Renzi, senza chiedere o ottenere niente, continueremo a fare la nostra parte. Cioè, non ho capito. Sia in Senato che alla Camera. Ho capito, ma ci sono i numeri senza di voi al Senato o no? I numeri teoricamente ci sono, però sono abbastanza esigui e non tali da stare tranquillo per un governo. Ma voi che volevate? Che ministero volevate? Non ho capito. No, noi volevamo entrare in Consiglio dei Ministri perché è quello il luogo dove... Cioè tu dici non è che ci può... è un governo abbastanza collegiale. Cioè tu dici non è che vi possono schifare, no? Cioè non è che vi possono schifare troppo. No, ma non si tratta di schifare o non schifare, si tratta che 18 voti al Senato potevano garantire al governo una maggiore tranquillità nella gestione del governo. No, però dico, voi volevate un posto al Consiglio dei Ministri perché è lì che si prendono noi le decisioni. Noi volevamo essere riconosciuti con un ruolo. E perché vi ha schifato? Almeno un ministro, no? E perché vi ha schifato Gentiloni? Perché probabilmente qualcuno lo ha mal consigliato sui numeri al Senato. Comunque voi la fiducia sicuramente non la votate. No, questo è poco ma è sicuro. Mi raccomando, non è che cambiate idea domani mattina perché vi danno quattro sottosegretari, no? È del tutto escluso. E anche se vi danno quattro sottosegretari, due, tre, quelli che saranno... No, li abbiamo già rifiutati ed erano anche più di quattro. Non è una questione di sottogoverno, è una questione di... legittimità politica, o c'è o non c'è. Comunque, Parenzo, secondo me Verdini doveva entrare al governo direttamente. Insomma, ancora una volta, caro Cruciani, quello che è ritenuta la parte più meno nobile del Parlamento italiano continua a dare lezioni di stile e di politica. Se sarebbe? E sarebbe altri che hanno un'idea più sbrigativa della politica, più pragmatica. Si sarebbe accontentato dei 5-6 sottosegretari. Cioè, voi avete solo rosicando perché non hanno beccato neanche un posto, dai. Dice... Non è un giudizio di merito. Non ho sentito delle parole di danno. Principio politico. No, sta dicendo. Nelle parole del senatore Danno. Non è da tutti fare le questioni di principio. Sì, no, però dice Parenzo che ti chiama... No, non ho sentito nel merito, niente. Ho sentito soltanto rivendicazioni di poltroncine di sottogoverno. Capirai, amico mio. No, nessuna rivendicazione. È sbagliato il sentito, Parenzo. Sta dicendo gli offerti abbiamo rinunciato. No, però d'accordo, però volevate un ministro e non ve l'hanno dato. Certo, che volevamo essere presenti in Consiglio dei Ministri. Amico mi mio. Mi sembra la cosa uno potrebbe dire di questo modo. No, per carità. Un governo che ha aumentato di 2 unità i ministri è passato da 16 a 18. Uno potrebbe dire è finita la pacchia, o no? Per noi non c'è mai stata la pacchia. Appoggiavamo il governo Renzi dall'esterno, insomma. Vabbè, caro Danna, ciao, a presto, ciao. Salutami a Parenzo. Ciao. Allora. Oh, finalmente ci siamo tolti questo dente, Parenzo, no? Verdini, abbiamo certificato che Verdini non appoggerà il governo Gentiloni. Bene, possiamo stare più tranquilli? Possiamo andare a dormire tranquilli oggi? Possiamo stare sereni, come direbbe. Bene. Allora, dove andiamo? Marcello da Rimini, dove eravamo? Vai. Io sono qui. Ma c'è ancora Eugenio? Abbiamo ripreso Eugenio oppure no? Oppure me l'avete lasciato là? Eugenio c'è o non c'è? Eugenio? Sì, ci sono. Allora, che volete? Aspetta, Marcella, arrivo da te. Che c'è, Eugenio? Allora, niente, io ce l'ho con Parenzo. Poi c'è un'altra cosa. Ogni volta che si parla italiani, sono mafiosi e camorristi. Lasciamoli perdere, quelli. Quella è una categoria a parte che non dovrebbe neanche esistere. Diciamo che la mafia ce l'abbiamo nel governo, la camorra ce l'ha nel governo. Parenzo, vabbè, ma che vuoi? Perché sta là? Ma che vuol dire? Che c'entra perché Parenzo che sta là? Qual è il legame tra le due cose? La mafia presunta. Voi, voi io ho parlato di italiani e voi mi avete messo in mezzo la mafia, il camorrista che è italiano. Per me un italiano è italiano. Vabbè, Eugenio, posso dire che sei un cretino? Che una persona che è camorrista, posso dire, perdere. Posso dire che sei un cretino o no? No, no, ma quale cretino? Siete un coglione tu e quell'altro coglione di Parenzo. Posso dire che sei un imbecille? Una persona, se uno di Mantova sta male e quello si fa la risata e poi va a Lampedusa da sti cazzo di neri che hanno rotto i coglioni. Eccolo, eccolo, eccolo. Perché hanno rotto i coglioni neri, scusa? Eccolo qui. Come se hanno rotto i coglioni? Cioè, te li vedi in mezzo alla strada così, uno, tutti con l'iPhone, cose, la gente si sta morendo di fame e questi qua vengono qua a non fare un cazzo. Stanno in mezzo alla strada con l'iPhone a mangiare e bere e poi vedi gli italiani che stanno in mezzo come degli straccioni. C'è anche ma la fanculo alle case loro. Ma, se questi sono nelle capanne, posso pagarle qua, anche a lei. Che cazzo vogliono? L'albergo sono disposto a pagare anche c'è a lei. C'è anche il wifi però, vogliono anche il wifi. Ma non dite stronzate. Aspetta, sono, aspetta. Eugenio. Sono disposto a pagare in tasca mia un viaggio a questo signore con me a Lampedusa. Eugenio, c'è anche il wifi. Parenzo, io 30 anni fa stavo in Marocco, sono stato in Marocco, in Tunisia. Dovevi là rimanerci. Veramente vedevi le persone come ti guardano. Dovevi Eugenio, vai. Eugenio. Vai a vedere, quelli sono razzisti. No, noi non siamo razzisti, sono loro razzisti. Se tu ti permetti razzismo. A dire nel loro paese ti tagliano la lingua e le palle. Eugenio, non sono razzisti, Eugenio, è ovvio. Eugenio, questo ha rotto i coglioni. Lui e sti cazzo di neri, ma veramente l'ha rotti proprio. Eugenio, ti segnalo che vogliono anche i wifi neri, ma no, quello già lo so. Capito? Ma quale wifi? Wifi. Li faccio in culo e li manderei tutti a casa loro. E vogliono anche vogliono anche il riso. Voglio fermo, stai zitto, vogliono il riso. Vogliono il riso la mattina a pranzo. E il riso, ma vogliono dategli pure la figa. Beh, adesso questo che c'è. Pagategli questo... la puttana. Bello. Parenzo, esci i soldi. Dai i soldi per pagare la puttana a questi qua. Dai. Vai, Eugenio, vai. Che ti fai del male da solo. Vai. A domani, ciao. Un pollo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.